Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Questa è Visionare il cinema su queste frequenze tutti i giovedì dalle 14 alle 15, spesso e volentieri anche subito dopo il giornale radio, quindi ora. Le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari. Sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Subito con gli ospiti. Ed eccoci con Lucilla Colonna, regista del film Festina Lente, uscito in sala lo scorso 6 marzo. Lucilla, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, benvenuto, ben trovato Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori. Allora, Festina Lente, intanto per chi ci ascolta, che storia racconta? Festina Lente è un lungometraggio che racconta 50 anni del Rinascimento italiano attraverso la vita e l'opera della poetessa Vittoria Colonna. Vissuta appunto nel Cinquecento, e in particolare affronta il rapporto di Vittoria Colonna con i libri, questa sua passione per i libri, per la scrittura e anche per la lettura, e in particolare i libri stampati da Aldo Manuzio, che è questo grande stampatore italiano, si può dire il primo editore del mondo, della storia. Okay. Senti, quali sono le particolarità, le caratteristiche, gli elementi qualificanti che ti hanno colpito del personaggio? Dunque, io ho proprio una fascinazione nei confronti della poetessa Vittoria Colonna, e questo attraverso la lettura delle sue rime, prima quelle amorose e poi quelle spirituali, e anche leggendo poi le sue lettere. Ho cercato di entrare piano piano in quello che era il suo pensiero, in quelle che erano le sue idee, molto progressiste per l'epoca in cui viveva, e soprattutto per una donna, e quindi ecco, ho cercato di trasmettere la novità del messaggio che lei metteva nelle sue poesie e in tutte le lettere che scriveva anche ad esponenti molto importanti del Rinascimento, Carlo V, che era l'imperatore del Sacro Romano Impero, ma anche lei aveva contatti con Ariosto, Aretino, che noi abbiamo dentro al film, e poi era l'amica prediletta di un artista come Michelangelo, che pure vedrete nel film. E quindi ecco, è venuto un film, si può dire, veramente, veramente ricco di spunti culturali e artistici. Mm-hmm. Lucilla, com'è stato tecnicamente ambientare una storia mezzo millennio fa? Allora, guarda, non è stato facile, perché a un certo punto ho dovuto un pochino isolarmi ecco, dal rumore, dal caos della città in cui vivo e lavoro, Roma, e sono andata nei luoghi dove lei aveva realmente vissuto 500 anni fa, a partire da Ischia, l'isola di Ischia. E quindi ho cercato di vedere e proprio sentire quello che i rumori, i colori che percepiva lei. E poi ho fatto, ecco, tutta una ricerca che è durata molto molto tempo, che però mi è piaciuta moltissimo, perché mi ha dato tanto proprio, in primis, ecco, ha dato tanto a me, una ricerca di come vivevano allora, di quello che avevano negli occhi, quindi anche tutti gli artisti che poi nel Rinascimento hanno fatto veramente dei capolavori, e quindi ecco, tutti cercare di capire cosa loro vivevano all'epoca. Sì, sì, sì, sì. Senti, Lucilla, ci dai tutte le informazioni internet per sapere dove sarà programmato il film? Allora, volentieri, trovate tutte le informazioni sul sito del film www.facebook.com/filmfestinalente. E poi c'è il canale YouTube, sempre Film Festinalente, dove potete vedere il trailer, il making of del film e anche altri video che vengono raccolti via via che il film viene proiettato in giro per il mondo. Benissimo. Allora, intanto ti dico che questa considerando casualmente questa è una puntata record, perché di 12 ospiti previsti 10 sono donne, e il che anche in ambito cinematografico non è una cosa semplice, quindi è un 8 marzo, è un 8 marzo posticipato, ma mi fa molto piacere questa cosa, e quindi hai cominciato tu, e quindi è bello anche questo. Lucilla, un abbraccio, speriamo a presto. Grazie tantissime, a presto. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Lucilla Colonna, regista del film Festina Lente, uscito in sala lo scorso 6 marzo. Con Eleonora Zamparutti, direttrice di Arte.it, sul documentario Revolution, la nuova arte per un nuovo mondo, in uscita in sala in due date secche, 14 e 15 marzo prossimi. Eleonora, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Eleonora, per chi ci ascolta, raccontiamo subito la storia di questo documentario, di cosa si parla. Sì, Revolution è un bel docufilm realizzato da Maggie Kinmont, una pluripremiata autrice della BBC e tra l'altro regista di un bel documentario sull'Hermitage che è stato nominato ai BAFTA. Il Revolution racconta un periodo felice nell'arte russa all'inizio del Novecento, quando con spirito utopico e assolutamente idealistico gli artisti esprimono un gran numero di correnti e di avanguardie, artisti del calibro di Kandinsky, Malevich e Chagall. Attraverso il racconto con i contributi di artisti contemporanei, esperti d'arte, con le testimonianze dirette dei discendenti dei personaggi che della rivoluzione russa sono stati i protagonisti, il documentario traccia questo periodo particolarmente felice che poi si interrompe brutalmente nel 1932 con l'arrivo di Stalin. L'occasione per vederlo, come tu dicevi, è diciamo molto breve, cioè verrà proiettato al cinema soltanto martedì 14 e mercoledì 15 marzo. Il docufilm è distribuito da Nexo Digital e si tratta di un evento al cinema. È un film che normalmente non avrebbe finestre di distribuzione nella tradizionale programmazione cinematografica, ma che grazie a Nexo gli appassionati di arte avranno l'occasione di poter vedere. Tra l'altro si vedono anche alcuni dei capolavori con una gran bella definizione e anche colori, insomma, è un'occasione anche per gustare opere d'arte. Sì, assolutamente, ma la cosa straordinaria, l'aspetto importante di questo film è che non è incentrato e focalizzato esclusivamente sull'arte figurativa di quel periodo e delle correnti, suprematismo, cubofuturismo, astrattismo, eccetera, ma racconta come l'attenzione utopica investe tutte le arti e tutte le discipline, a cominciare dalla poesia, dal cinema, al teatro, alla danza. E questo è un aspetto molto importante, perché la Russia di primo Novecento è punta di diamante dell'avanguardia non solo europea, ma io oserei dire nell'intero mondo. Quello che si vive in Russia in quel momento si travasò poi nel resto del mondo e negli altri paesi. A partire dalla semplice propaganda, dai manifesti, dalle locandine, dai disegni appunto relativi alla militanza vera e propria. Sì, assolutamente. Anche la grafica utilizzata da Rodchenko per i suoi manifesti racconta molto della propaganda politica di allora. Allora gli artisti si fecero portatori dei valori della rivoluzione e credevano che effettivamente la rivoluzione avrebbe cambiato il mondo e sarebbe nata una nuova arte, e così contribuirono con grande spirito a questo processo di innovazione che poi la storia diede brutalmente un colpo secco. Però è importante ricordare che questo film esce proprio quest'anno a 100 anni dalla rivoluzione russa del 17 e ci sono numerosi musei, istituzioni museali che dedicano a questo evento mostre ed esposizioni. Tra l'altro a breve, il 15 marzo, inaugurerà a Milano al MUDEC una bellissima mostra su Kandinsky. Per chi avesse l'occasione di visitarla avrà modo di vedere qui 52 tele che non sono e lavori che non sono mai stati presentati fino ad ora in Italia. Mentre a Londra, la Royal Academy of Arts, c'è una splendida mostra sul periodo 17-32, le grandi avanguardie della Russia, e lo stesso a New York, ma qui la mostra chiude il 12 marzo, espone oltre 260 opere che provengono dalla collezione permanente del MoMA. Senti, per chi ci ascolta, Eleonora, una curiosità, con l'avvento del periodo staliniano, la regista del documentario dove individua le responsabilità e anche le modalità e anche i motivi per cui ci fu questa repressione contro gli artisti? Ah, fondamentalmente l'arrivo di Stalin impone l'abbandono di qualsiasi forma di arte astratta e un duro e crudo ritorno al realismo. Ovviamente questo fu un duro colpo per quegli artisti come ad esempio Malevich, che credeva nel suprematismo, cioè nella supremazia del sentimento plastico, che doveva astenersi da qualsiasi forma di rappresentazione della natura. Il famoso quadrato nero di Malevich, che doveva idealmente essere appeso alle pareti in sostituzione delle icone religiose russe, è il simbolo di una volontà di cambiamento, di una possibilità oltre la religione, ma che appunto lo stesso Malevich fu costretto fu perseguitato, le sue opere furono sequestrate, quindi lui stesso fu portatore di una storia abbastanza tragica, dove poi la libertà di espressione non ci fu. Senti, Eleonora, ci lasci tutti i riferimenti per arte.it per saperne di più sia su questo documentario che sulle vostre attività? Sì, certamente. Arte.it è un sito di informazione di attualità sull'arte e sui beni culturali. All'interno del nostro sito troverete una recensione del film e uno speciale con vari approfondimenti sugli artisti principali che vengono raccontati nel film: Chagall, Kandinsky e Malevich. Benissimo. Basta. Eleonora, allora ricordiamolo: Revolution, la nuova arte per un nuovo mondo, mondo nuovo, al quale abbiamo dedicato anche l'immagine di copertina della puntata di questa settimana, con una foto di una delle più celebri opere di quel periodo, con la donna che urla a mo' di megafono. Ricordiamolo, in uscita in sala nelle date del 14 e 15 marzo. A risentirci presto. Ti ringrazio tantissimo, Federico. Andate a vedere questo film perché è davvero un documento molto importante che racconta e la dice lunga di quello che è stato il secolo scorso e di tutta la storia che poi ne è seguita. A presto, ciao Eleonora. Grazie, a presto, ciao. Eleonora Zamparutti, direttrice di arte.it sul documentario Revolution, la nuova arte per un nuovo mondo, in uscita in sala 14 e 15 marzo. Con con Chiara Boffelli del 35esimo Bergamo Film Meeting dall'11 al 19 marzo. Chiara, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Un'edizione importante, numero 35, giusto? Esatto, sì, ormai siamo più che adulti. Senti, quali, per chi ci ascolta e non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche del Bergamo Film Meeting? Allora, il nostro festival, che si svolge come da consuetudine nel mese di marzo a Bergamo, è un festival che è specializzato nel cinema d'autore. Cinema di qualità, quindi, con un programma che si divide circa, quindi la metà è dedicato alle retrospettive storiche, che è un tratto distintivo e molto significativo quindi della nostra programmazione, e metà programma invece che si rivolge al cinema contemporaneo, con l'obiettivo di scovare nuovi autori, scoprirli o riscoprirli, con una particolare attenzione al cinema europeo. Chiara, quante sono le opere che proponete in questa edizione? Quest'anno, in 9 giorni di programmazione, proponiamo 169 film. Bei numeri. Senti, come è strutturato più o meno il festival? Che sezioni ci sono? Allora, le due sezioni competitive sono la mostra concorso, nella quale presentiamo 7 opere di fiction inedite in Italia, 7 lungometraggi quindi a soggetto, e avremo diverse cose. In alcuni casi sono film che non sono passati ai grandi festival, e solitamente cerchiamo proprio di andare a scovare quei film ancora poco visti. In altri casi abbiamo comunque dei titoli che magari sono già stati visti. Penso per esempio a Voir du Pays, che è stato al Festival di Cannes quest'anno, oppure al film Alba, che è stato presentato anche al Festival di San Sebastian, come poi anche in altri festival mondiali molto importanti. L'altra sezione competitiva è Visti da vicino, che è la sezione dedicata al documentario. Quest'anno abbiamo 14 documentari, anche in questo caso tutti in anteprima italiana, con un'anteprima mondiale del film italiano Fame di Giacomo Abruzzese, che quindi sarà presentato per la prima volta qui a Bergamo. Allora, Chiara, ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Il sito è bergamofilmmeeting.it, e qui è possibile consultare il programma completo, tutte le informazioni anche relative agli eventi speciali, le mostre, l'inaugurazione e così via, perché è un festival che, oltre ai 169 film, propone tantissime attività collaterali per dare anche alla città e a tutto il pubblico che viene anche da fuori e dall'Europa un'offerta il più ampia possibile. Benissimo. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci la prossima volta. Crepi, grazie mille, a presto. Dai, a presto. Ciao. A presto. Ciao. Chiara Boffelli della 35esima edizione del Bergamo Film Meeting dall'11 al 19 di marzo. Giulia Merenda, regista del documentario Terra Terra, presentato al Teatro di Rebibbia Femminile ieri 8 marzo. Giulia, benvenuta a Visionari, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Allora, ti chiedo subito, com'è andata ieri al Rebibbia Femminile? È andata molto bene, è stato emozionante, perché queste donne avevano con me, insomma, e anche vissuto questo progetto che si chiama Terra Terra, e che poi è diventato un documentario nel senso più puro del termine, no? Proprio testimonianza di un percorso durato un anno di lezioni, piano di scienze, di soprattutto di lingua italiana, perché la maggior le donne di Rebibbia sono straniere di tutte le parti del mondo, ma anche appunto un percorso in mezzo alla terra, all'azienda agricola, a contatto con gli animali e con questo campo di grano che così per miracolo è apparso solo per quella, sembra così una guest star del documentario, perché infatti poi dopo non è nato più, non c'è più, insomma è stato così, è arrivato, abbiamo provato a seminare e poi è nato, insomma è venuto fuori un bel raccolto, e questo grazie al sostegno che abbiamo avuto dell'ARSI, al Regione Lazio, che appunto è proprio l'ente che si occupa delle aziende agricole, dell'agricoltura, dello sviluppo e dell'innovazione dell'agricoltura, e di Libera, l'associazione insomma, che si occupa di antimafia, e della scuola, che è il centro provinciale istruzione adulti, che appunto è quella alla quale io faccio parte, anche se poi part time, diciamo, nel senso che poi per il resto della mia vita faccio anche la documentarista. Sono senza voce, mi dispiace. Però no, ti sentiamo bene. Giulia, senti, queste sono attività previste per le detenute in regime appunto di detenzione? In realtà no, è un modello sperimentale, okay, che mi sono inventata, proprio perché sono un ponte tra varie cose io stessa. Tutto è partito dal fatto che dalle sbarre di queste aule che sono adibite alla scuola io vedevo questi campi, questi alberi in fiore, dicevo ma voi andate lì, dice no, noi facciamo la nostra aria, insomma loro usano questi cortili, che quelli sono quelli classici che si vedono in tutti i film, no? I cortili quelli con le mura intorno. Sì. E allora ho pensato che poteva essere fantastico, innanzitutto per andare fuori, anche se all'interno di un carcere, pensare di fare delle lezioni all'aperto. Poi da cosa nasce cosa, quindi poi da terra a terra si è fatto un percorso sulla legalità e l'abbiamo portato insieme soprattutto Gabriella Stramaccioni, che ha curato questa parte, e l'abbiamo fatto in tutti i carceri di Roma, e abbiamo realizzato anche uno spot al Casal del Marmo con le ragazze del minorile, che è stato proiettato prima del documentario, e poi quest'anno con il sostegno delle pari opportunità facciamo un nuovo progetto che si chiama Salviamo la faccia contro la violenza, e per questo l'8 marzo è il primo step di questo nuovo progetto, è una sala cinematografica vera e propria che allestiamo all'interno di Rebibbia Femminile insieme al teatro. Ecco, adesso funzionerà una vera e propria sala, e lì poi anche Fondazione Cinema di Roma e Alice nella Città appunto penseranno a una serie di iniziative che arriveranno fino alla festa del cinema, insomma, mm-hmm, tante cose, soprattutto all'idea che le donne quando ricevono in visita i propri figli possano invitarli al cinema, ecco. Sì, sì. Un momento in cui tutte le sale chiudono, mi sembra una buona cosa. Senti Giulia, quante sono state le donne coinvolte in questo progetto? Guarda, all'incirca erano 3 classi, ma insomma all'incirca 60 così, mm-hmm, di cui poi 3 su 3 ci siamo focalizzate, insomma 3 erano anche disponibili a parlare, no, più di loro, a raccontare quello che stavano facendo. 3 donne, una colombiana, una brasiliana e un'altra rom, che lavoravano in azienda, lavorano tuttora, una si occupava appunto di conigli, l'altra dei campi, della coltivazione, e l'altra invece era più una studentessa modello, ecco, insieme tutte e tre raccontano questa cosa, ma raccontano anche di loro stesse, insomma, sì, di come piano piano si cambia, e soprattutto evitando quei cliché classici sul carcere, su un po', no, quella visione un po' del dolore, un po' anche come dire pruriginosa, no? Quello volevamo proprio evitarlo. Sì, È molto gioioso nel documentario, sì. Allora, per a proposito del documentario, per Terra Terra si è trattato, insomma, della presentazione ufficiale. E adesso che percorso farà? Giulia? Guarda, se ci sono una serie di, intanto farà il percorso delle, dei festival, delle rassegne, insomma, vediamo, e poi sì, insomma, aspettiamo delle risposte, poi così si aspetta, si spera anche così che il servizio pubblico, insomma, che ci sia un interesse poi di un passaggio televisivo, questo sarebbe il goal, anche perché poi in un carcere le donne hanno una cosa che hanno nella cella, è il televisore, quindi l'idea di rivedersi, insomma, certo. Ecco, non è che possono poi andare a vedere le cose fuori, a parte la sala cinematografica nuova. quindi insomma sarebbe interessante questo. Io non so niente di sicuro, ecco. Uh-huh. So che l'accompagnerò nel suo percorso. Ecco, forse una cosa interessante e molto curiosa è che va in Vermont a un'associazione di ortoterapeuti del penitenziario di New York, mi hanno invitato ad andare a settembre a far vedere Terra Terra. Sì, andrò in America, ma appunto in un circuito un po' diverso. Senti, sì, e per saperne di più sul web ci lasci tutti i riferimenti? Guarda, in realtà invece poca cosa roba. Perché penso che, nonostante ovviamente tutte le donne siamo d'accordo, insomma, ovviamente abbiamo fatto insieme tutto il percorso, ritengo che invece un po' di privacy vada tutelata. Ok. In ogni caso, sì. Questo sono un po' più attenta, forse perché faccio anche la loro prof, capisco che l'esposizione così non, anche sul web non è un po' incontrollabile, quindi per adesso siamo d'accordo che sospendiamo. Ok, siamo un po', va bene, controcorrente. Magari ci farai sapere poi in futuro le prossime novità. Sì, va okay. Bene, grazie mille. Un abbraccio, Giulia, di questo interesse, grazie mille anche da parte delle donne di Ripoli. Bene, bene. Grazie, un abbraccio, a presto, ciao Giulia. Sì, ciao. Giulia Merenda, regista del documentario Terra Terra, presentato al Teatro di Rebibbia Femminile ieri 8 marzo. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta alla diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ezio Leoni di Tycoon Distribution sul documentario Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel in uscita in sala oggi giovedì, oggi 9 marzo. Ezio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci qua, intanto subito la precisazione, ecco. È un errore che ha fatto la produzione, non è un documentario. Oh, è un film. È un film, ha il tono del documentario solo perché sono tutti attori non professionisti. Correggo e quindi subito. C'è una spontaneità da documentario. Allora, intanto partiamo dalla nuova avventura di Tycoon Distribution. Ci parli di questo progetto? Beh, speriamo che non sia un progetto suicida, però il progetto è quello di riuscire a portare in Italia altri film che non trovano distribuzione abitualmente, che sono piccoli, che sono d'essè, che sono di nicchie certamente, ma che secondo noi valeva la pena di portare. Io sono critico cinematografico, altri amici come me andiamo ai festival, vediamo delle cose belle, cioè perché non arrivano, e allora ci siamo buttati tentando questa cosa. Che funzioni, chissà, io spero di sì. Sto scoprendo che la cosa più difficile non è tanto la campagna pubblicitaria, i media come stiamo facendo adesso, è poi trovare delle sale che quella data, quel giorno siano liberi e ti diano spazio. Questa è veramente una difficoltà. Sì. Allora, questa è la prima scelta, Mister Universo, come mai? Dunque, in realtà è la seconda scelta, perché la prima era stata Tanna, che poi ha finito con corsa agli Oscar, no? Okay. Solo che Cannes ci hanno messo 2 anni a dire di sì, e nel frattempo abbiamo trovato a Locarno questo film che aveva vinto la menzione del festival, abbiamo contattato, ci hanno detto di sì, siamo partiti perché ci è piaciuto molto, una spontaneità fuori dal comune, e quindi via con questo. Senti, quali elementi vi hanno convinto di questo lavoro? È il fatto che, anche se il tema del circo non è un tema che mi tocca o che tocca, possa toccare il pubblico, però all'interno del circo c'è una voglia di affermarsi, di credere in qualcosa dei protagonisti, che hanno un forte rapporto con la superstizione ma anche con la forza di volontà, che dà proprio un senso in questo periodo della vita italiana, anche in cui tentare di fare qualcosa grazie agli amici, alla fiducia del mondo, dà un senso particolare, insomma, perché i circhi stanno morendo, e Tirsa Corri diceva che è un po' come muore la pellicola, come muoiono le piccole sale, c'era anche una serie di analogie con questo mondo cinematografico, e la cosa ci ha toccato. Senti, avete già un vostro piccolo circuito di sale? Sì, siamo riusciti a trovare una decina di sale in prima battuta, e poi nel mese dopo, la seconda settimana, quasi altrettante. Vedremo quale attrezzatura però si riesce a ottenere, insomma, perché sicuramente sono tutte sale di nicchia, non sono nessuna multisala o medio sale, insomma, multiplex ovviamente non ci basano neanche. Senti, per questa prima fase avete già stabilito un ritmo di uscite? La prima uscita è questa, poi il 28 aprile usciamo con Tanna, okay, che appunto non ha preso l'Oscar, se no è un colpaccio. E poi la terza dovrebbe essere da settembre a dicembre, dovremmo decidere quando, ed è un film che si chiama My Name is Emily, che in combinazione è uscito in questi giorni in America, vedremo il risultato degli scambi americani, insomma. Ezio, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più su di voi e su questo film? Beh, la cosa più semplice è tycoondistribution.it, e lì ci sono le informazioni su questo film e sugli altri, sicuramente di tutte, anche sul profilo Facebook associato, sempre Twitter, cioè tutte le cose che ormai con i social bisogna fare. Benissimo, allora ci sentiamo per le prossime uscite. Va bene, certamente. Un abbraccio, ciao. Molte grazie a te, ciao, grazie. Ezio Leoni di Tycoon Distribution sul film Mister Universo di Tirsa Kovi e Rainer Frimmel, in uscita in sala oggi giovedì 9 marzo. Valentina D'Amore, coregista del documentario Non Tremare, storia di un campo solidale, che è in programmazione al Nuovo Cinema Aquila domenica 12 marzo. Valentina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro. Non Tremare è la storia del campo solidale di Amatrice, che è un'esperienza nata subito le ore dopo il sisma del 24 agosto ad Amatrice. Noi siamo saliti lì, io e l'altro mio compagno regista Stefano Torreggiali, e eravamo andati lì perché personalmente siamo legati a quei territori. Io avevo una parte della mia famiglia che viveva su insomma ad Amatrice, per cui siamo partiti un po' per inizialmente soccorrere un po' la famiglia e dare una mano insomma la popolazione terremotata, e piano piano ci siamo trovati a raccontare la storia di quello che poi oggi si è rilevato, diciamo, uno dei campi che ancora rimangono a supporto e a sostegno delle famiglie. Diciamo che è stato un lavoro work in progress, è un docufilm, e sì, per me, diciamo, è la mia prima volta che faccio un'opera insomma così più lunga. E è stato un po' un racconto nato piano piano, giorno dopo giorno, e che prova a raccontare l'assistenza dal basso che viene data alla popolazione di Amatrice, tutta la conca amatriciana, e insomma che tuttora oggi è ancora lì ad Amatrice, e che è lì, insomma. È nato un po', diciamo, un po' per caso. Pronto, mi sentite? Sì, sì, ti sento bene. Ecco. Diciamo che è nato un po' per caso, perché inizialmente non volevamo, diciamo, appunto eravamo andati lì per fare gli attivisti, poi ci siamo ritrovati appunto a, a pensare che quello che stavamo facendo quanto come attivisti era un qualcosa che andava un po' raccontato, sì. A dispetto di tutto, diciamo, il meccanismo di sostegno che stava dando un po', diciamo, l'istituzione, la parte istituzionale. Abbiamo visto nascere il campo e quindi abbiamo provato a raccontare come è nato, come viene gestito ogni giorno, e provando a raccontarne un po' la storia e cercando di definire un po' le linee guida che ci hanno portato sia a Scossa Solidale, alle Brigate della Solidarietà Attiva, a creare e immaginare un'esperienza del genere. Senti, ecco, Valentina, a questo proposito volevo chiederti quante persone ha coinvolto, quanti attivisti ha coinvolto il campo, e poi come, anche per chi ci ascolta, come è organizzato e come lavora un campo autogestito? Allora, diciamo che il campo è difficile raccontare e raccogliere il numero degli attivisti che sono passati, sì. Perché dal 24 agosto sono stati tantissimi, migliaia. Campo Solidale Matrice è un campo che si trova alle porte da Matrice, nato il 26 agosto ufficialmente, quindi due giorni dopo il sisma, e che diciamo, attraverso una rete nazionale messa in piedi da Scossa Solidale, che rappresenta le strutture e gli spazi sociali romani, e le Brigate della Solidarietà, abbiamo messo in piedi, insomma, questa struttura prima fisica, provvedendo logisticamente a fornire quelle strutture in grado di poter ospitare uno spaccio popolare, uno sportello legale e tutta una serie di attività legate anche, non so, un po' a quelle esperienze, a quelle attività che cercano di riportare un po' un senso anche di normalità, dove oggi di normale purtroppo non c'è più nulla. E il campo, diciamo che ogni mattina ci sono delle staffette, delle persone che si muovono e che raggiungono tutta la conca matriciana, provando a raccogliere, diciamo, le richieste dei bisogni delle persone che attualmente ancora resistono e vivono nei paesi della conca matriciana, e cerchiamo di fornire loro i beni di prima necessità, ma anche di seconda necessità, una chiacchiera, un sostegno anche psicologico, e difatti è per questo che è attivo, diciamo, lo spaccio popolare, che è una delle attività principali. Al campo poi è presente uno spazio legale dove poter raccogliere e chiedere informazioni al riguardo, sia per la sospensione delle tasse o comunque per le agevolazioni che un terremotato ha diritto, e per questo ci sono molte persone pronte anche a rispondere a questo tipo di esigenze. E dopodiché al campo c'è anche uno spazio dedicato appunto alla socialità, altro fattore molto importante che noi crediamo che sia fondamentale, utile e indispensabile affinché la popolazione possa in qualche modo, insomma, reagire e sentirsi ancora parte viva di un processo anche di ricostruzione. Per cui queste, diciamo, sono un po' le attività del campo. Noi abbiamo provato un po' a raccontarle piano piano, sono tutte riprese fatte a camera, diciamo, a mano. Ti dico anche, inizialmente è stato anche abbastanza difficile provare a raccontare e raccogliere, certo, delle testimonianze, perché come potete immaginare, soprattutto la fase dei primi mesi legati a un'esperienza traumatica come quella del terremoto che c'è stato, insomma, abbiamo preferito raccogliere dei dati ma non disturbare e non metterci al pari del circo mediatico, che invece abbiamo visto muoversi immediatamente dopo alcune ore del sisma, e che però, insomma, se n'è andato come è arrivato, se n'è anche andato subito, e tant'è che oggi non Amatrice purtroppo è uno di quegli argomenti di cui non se ne parla più. Ecco, quindi proprio era anche un po' l'idea di voler raccontare come l'esperienza dal basso, auto-organizzata e indipendente dai meccanismi della protezione civile e dallo Stato, esiste, mantiene, e di fatto oggi il campo Solidarietà Matrice è l'unica, posso affermarlo con certezza e determinazione, è l'unica attività che è rimasta lì presente sul territorio a sostegno della popolazione terremotata. E noi raccontare questa storia ci serviva anche per continuare a far parlare di Amatrice e per raccogliere dei fondi affinché quel campo possa continuare a esserci, proprio perché essendo indipendente non ha alcun convenzionamento insomma dallo Stato. Sì, sì. Ecco, dicevi, ti volevo chiedere, a distanza di qualche mese dal sisma, il campo solidale di Amatrice continua ad essere attivo, e invece qual è lo stato della rete che si era costruita e quindi anche degli altri campi nelle zone colpite? Allora, guarda, noi diciamo come scossa ci siamo dedicati principalmente alla gestione del campo solidale di Amatrice, okay. Però appunto anche lo stiamo facendo in collaborazione con le brigate della solidarietà, che invece si trovano a lavorare a un ampio raggio. Quindi immediatamente dopo il sisma del 24 agosto con quello di ottobre, purtroppo c'è stata l'esigenza di creare altri presidi di sostegno di questo genere, e ovviamente insomma la collaborazione è massima. Purtroppo la situazione è ancora un po' delicata e pesante, perché attualmente molte persone ancora vivono nelle strutture in tende o comunque ospitati, e ancora oggi non hanno appieno gli strumenti e possibilità per ritornare alla normalità quanto prima. E per cui è una situazione abbastanza delicata, e che purtroppo oggi di cui oggi ancora magari un po' non se ne parla. Senti, per la proiezione domenica al nuovo cinema Aquila ci sarà anche la vostra presenza? Sì, ci saremo anche noi, io e Stefano, e stiamo invitando anche l'associazionismo, le persone che abbiamo incontrato e conosciuto lì sul campo, dagli spazi sociali romani alle brigate della solidarietà attiva, e insomma invitiamo tutti quanti, perché questo è un prodotto che abbiamo fatto a sostegno del campo, quindi in ogni luogo dove verranno raccolti dei fondi, tutti i fondi andranno esclusivamente a sostenere il campo solidale Amatrice, affinché le sue attività possano continuare ad esserci, per raccogliere i beni di prima necessità e per permettere che le attività del campo possano svolgersi, perché noi rimarremo lì. Stiamo passando tutto l'inverno, abbiamo passato una situazione davvero davvero rigida con la neve, con la pioggia, con la bufera, il campo solidale Amatrice è sempre lì presente, e quindi questo era un po' mettere a disposizione le proprie professionalità, chiamiamole così, a sostenere la solidarietà attiva e dal basso, per cui sostenere e venire a vedere questo film, o andarlo a sostenere e vedere anche negli altri spazi sociali romani e dell'Italia, vuol dire sostenere in prima persona, in maniera diretta, il campo e l'attività degli attivisti e dei volontari del campo solidale di Amatrice. Senti, allora in chiusura ci dai l'orario della proiezione e poi tutti i riferimenti web per saperne di più su di voi? Certo, allora la proiezione c'è dalle 17 alle 19 al Cinema Aquila, zona Pigneto, e per trovare sia i trailer così, ci sta anche nelle pagine di Vimeo, di Lab TV, lab-tv.eu. Noi siamo un collettivo indipendente nato da uno spazio sociale che è Astra 19, e ci piace mettere a disposizione le nostre professionalità a sostegno di un progetto così importante e così grande come questo. E difatti vi ringrazio tantissimo intanto per averci chiamato e dato la possibilità di poter raccontare quello che stiamo facendo. Grazie mille davvero. Beh, ci sentiremo spero anche prossimamente. Ma sì, guarda, già l'idea è nata come finito questo primo prodotto, che è molto emotivo e che prova a enunciare un po', a buttare un seme su quello che sta accadendo, già ci è venuta la voglia di un po' provare a raccontare anche il dopo, certo, no? Certo, quello che sta accadendo in questi mesi, sì, dove sì, la gente inizia a tirar fuori dopo le lacrime, comincia a tirar fuori la rabbia e quindi chissà, forse magari ci sarà anche un seguito per poterne parlare, dove magari ci focalizzeremo un po' più sulla parte politica e un po' più d'attacco su quello che sta accadendo in Monca Amatriciana. Chiaramente, allora fateci sapere, un abbraccio, e ricordiamo la proiezione di domenica al nuovo Cinema Aquila. Ciao Valentina, grazie a presto. Grazie mille davvero, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora. Ciao. Valentina D'Amore, co-regista del documentario Non tremare, Storia di un campo solidale al Nuovo Cinema Aquila domenica 12 marzo. E ora invece siamo in collegamento con Ilaria Ravarino di Fabrique du Cinéma per parlare di Caro Divario, campagna contro le discriminazioni di genere nell'industria dell'audiovisivo. Ilaria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a voi, grazie mille per l'ospitalità. Tra l'altro dicevo prima che è una puntata record questa, senza volerlo notavo il fatto che su 12 ospiti previsti 10 sono donne, il che anche nel mondo del cinema non è per niente scontato, anzi piuttosto raro purtroppo. Raro, tra l'altro vi ringrazio perché non è l'8 marzo, perché l'8 marzo sarebbe stato più scontato, invece sì, il 9 sembra davvero autentico, grazie. Certo, per noi è un po' tutto l'anno questo 8 marzo. Allora Ilaria, ci parli un po' del progetto e poi della campagna che avete lanciato. Ma guarda, siamo contentissimi in realtà perché ieri a Roma abbiamo chiuso la prima parte della campagna. Il progetto era semplicissimo, era quello di, noi siamo un giornale, siamo un trimestrale, ci occupiamo di cinema giovane, veramente giovane, quello che fanno i ragazzi sotto i 30 anni, e così ci interessava provare a divulgare, a raccontare, che è la cosa che sappiamo fare meglio essendo un giornale, i dati che sono stati raccolti nel corso degli anni da numerose associazioni sulla presenza delle donne al cinema. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che la presenza era completamente infima e la situazione era davvero così disperante. Quindi abbiamo provato a fare questa campagna, ma anche abbastanza velocemente, sfruttando biegamente la capacità che ha l'8 marzo di così convogliare l'attenzione dei media sulle donne, poi dopo se ne dimenticano, però l'8 marzo ci sono tutti. Appunto, abbiamo provato a raccontare questi dati divulgandoli via Facebook, con i social, come meglio potevamo, per puntare un po' l'attenzione sul problema. Ieri abbiamo chiuso questa parte della campagna con una piccola festa a Roma e adesso parte il momento forse più interessante, che è quello della costruzione. L'abbiamo chiusa presentando 5 possibili punti dai quali ripartire, questa era l'idea. Allora, intanto ti chiedo, anche per chi ci ascolta, di inquadrare i dati, nel senso di cosa parlano questi numeri, quali sono le proporzioni, e poi ci spieghi un po' anche questi 5 punti dai quali partire. Sì. Beh, i numeri, sì ragazzi, sono veramente deprimenti. Ve ne dico alcuni, quelli che ho visto hanno catturato di più l'attenzione. Intanto il numero delle registe e delle sceneggiatrici in Italia sono il 25% del totale, quindi già questo vi dovrebbe dare un'idea. Che dici, vabbè, magari è perché non lo vogliono fare. Non è corretto, perché se prendiamo un ente come il Centro Sperimentale, che è, come forse saprete, un'importante scuola pubblica di cinema italiana, bene, il 44% dei diplomati sono donne. Poi però alla fine, se vai a controllare, è attivo in Italia il 24%. Che fine hanno fatto? Perché non lavorano? Più del 90% dei film che arrivano in sala sono diretti da uomini. Anche questo è un dato abbastanza, credo, interessante. Un altro dato parecchio interessante è quello sui finanziamenti pubblici. Il nostro Stato, per fortuna, dà del denaro a chi ha un progetto interessante, vuole portarlo al cinema. Peccato che questi fondi per l'88% siano attribuiti a registi maschi, e ci sono le registe, non è che non ci sono. Il problema è che per la maggior parte di loro non si riesce ad andare oltre il primo film. Tra l'altro, vado avanti con questi dati mostruosi, i film delle registe donne di solito vengono presi ai festival, il 73% dei film girati da donne alla fine arrivano in qualche festival in Italia, anche fuori dall'Italia. Quando però poi si tratta di premiarli, le cose vanno malissimo. Sugli Oscar probabilmente saprete già, abbiamo soltanto in tutta la storia degli Oscar una donna regista premiata. In Italia le cose non vanno meglio. Se voi prendete il David di Donatello, che è il nostro Oscar, sembra incredibile, ma dal 56 mi pare fino a oggi nessuna donna ha mai vinto il David di Donatello come migliore regista, e anche qua ce ne sono state, mi pare, no? Certi nomi tipo, non so, Francesca Archibugi o Odina Vermüller non sono proprio esattamente sconosciuti. Cristina Comencini, Liliana Cavani, cioè possiamo andare avanti, eppure mai nessuna di loro ha vinto il premio per la migliore regia, che non è una cosa piccola o scontata, perché dovete considerare che vincere questi premi, oltre ad essere una questione di prestigio, poi aiuta anche dopo a ricevere appunto finanziamenti, almeno col sistema precedente, adesso la legge cinema è cambiata, però insomma era una cosa che poi influiva, che pesava, non è soltanto una questione di così fai il figo, ho vinto un premio, cioè serve poi avere anche soldi. Certo. E potrei andare avanti e annoiarvi con questi dati, no. Ma più o meno più o meno abbiamo inquadrato la situazione, e invece piuttosto questi 5 punti dai quali ripartire. Ma i 5 punti appunto sono, intanto faccio outing, i 5 punti non è che li abbiamo inventati noi abbiamo copiato una strategia che ha funzionato in particolare in Svezia, sono 5 punti elaborati dall'Istituto Cinematografico Svedese e lì hanno funzionato. Fondamentalmente si tratta di, prima di tutto, fare una, l'idea sarebbe quella di costruire un database delle professioniste, un database online per mettere in rete le professionalità, le donne che lavorano nel cinema, farle conoscere, metterle in comunicazione fra loro, comunicare al mondo che esistono, perché uno può anche pensare che non ci sia una fonica, una direttrice della fotografia. Lavorare, spingere per una distribuzione più equa, io direi 50-50, però poi che sulle quote ci si accapiglia, però insomma una distribuzione più equa dei fondi pubblici. Lavorare con le ragazze, perché così come per le materie scientifiche bisogna lavorare perché le donne capiscano che ci sono delle carriere aperte per loro anche in quegli ambiti, purtroppo gli vengono spesso precluse perché fin da piccole appunto le si crescono, no? Con l'idea che fare la scienziata non sia un lavoro per donna, ecco, così anche per quanto riguarda i lavori da fare nel campo dell'audiovisivo, non esiste solo la recitazione, il costume, la scenografia, con tutto il rispetto per questi meravigliosi ambiti, ma una donna può pensare anche di fare carriera nel mondo della regia o della produzione, quindi magari lavorare con le scuole oppure nei festival, creare dei programmi di supporto per le registe che esordiscono, perché un conto è esordire, un conto è fare il secondo o il terzo film. Sì. Quindi si potrebbe organizzare a livello istituzionale appunto dei sistemi di tutoraggio realizzati con l'aiuto delle donne che hanno già avuto successo, sono arrivate al secondo, al terzo, quarto film, per fare insieme un pochino di lobby, se vuoi, e anche insomma provare a indirizzare le più giovani verso produzioni interessate o finanziamenti e così via. E infine, sto andando molto veloce ma non voglio annoiare, aiutare i produttori indipendenti, quelli che rispettano politiche di genere oppure producono film in cui i personaggi femminili abbiano un certo rilievo, perché anche quello è un problema, aiutarli con dei premi, con degli incentivi, insomma in qualche modo premiare i virtuosi, anche se appunto sono strutture produttive indipendenti. Questa è l'idea, in Svezia ha funzionato. Ilaria, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Un riferimento che ci tengo proprio a darvi è il nome della DEA, Donne Audiovisivo. La maggior parte dei dati sui quali abbiamo costruito la nostra campagna li hanno raccolti loro, sono bravissime. Oggi alle 3 al centro sperimentale presentano una loro ricerca, si chiama Gap and Shack, è fighissima. Provate a vedere, se magari la mettono online, se non potete andare a sentirla, insomma scaricatela, perché ci sono tanti dati interessanti che riguardano non solo l'audiovisivo ma più in generale la situazione delle donne nel mercato del lavoro europeo. E per quanto riguarda noi siamo appunto un giornale, quindi ci potete trovare ogni 3 mesi nei cinema, nei centri culturali, in alcuni locali, oppure online, Fabrique du Cinéma, e anche sulla nostra pagina Facebook. Ilaria, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ilaria Ravarino di Fabrique du Cinéma su Caro Divario, campagna contro le discriminazioni di genere nell'industria dell'audiovisivo. Andrea Cuneo di 20th Century Fox sulla distribuzione del film Il diritto di contare di Theodore Melfi, in uscita in sala da ieri, mercoledì 8 marzo. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a voi, salve a tutti voi. Allora, raccontiamo un po' a chi ci ascolta la storia di questo film, di cosa si parla? Allora, la storia innanzitutto è una storia vera, a tantissimi aspetti che possono essere comunque analizzati. Diciamo che il filologico è questa storia di queste tre matematiche che hanno oggettivamente cambiato la storia degli Stati Uniti, perché in un periodo in cui la segregazione, sia da un punto di vista di razza che da un punto di vista anche di sesso, era molto forte, loro comunque sono riusciti a farsi strada, diventando poi gli artefici di quello che poi è stato il primo uomo mandato nello spazio da parte degli Stati Uniti. Inoltre, parte abbastanza interessante anche del film, loro hanno poi partecipato anche a tutto il progetto Mercury fino ad arrivare anche all'Apollo 13, e una di queste è stata proprio quella che ha riportato con i suoi calcoli l'Apollo 13 sulla Terra. Quindi una storia vera che però poi racconta in realtà il messaggio che c'è dietro, cioè come si è riuscito con la forza di volontà a sconfiggere una serie enorme di pregiudizi. Sì, sì, sì. Senti Andrea, com'è il vostro rapporto con questo film? Dove lo avete scovato e come avete poi deciso di distribuirlo? Allora, il film nasce da un libro che comunque come era diciamo un po' nascosto, infatti in inglese il titolo originale è Hidden Figures, quindi evidentemente la storia e il libro erano nascoste. Sì. Si è deciso di renderla famosa, di renderla conosciuta questa storia, e tra l'altro un po' perché è stato un caso storico, un po' perché è stato oggettivamente voluto, viene fuori in un momento in cui le tensioni razziste e sessiste sono molto forti. Non per niente noi l'abbiamo lanciato proprio il giorno della festa della donna a un prezzo speciale che era quello di 2 euro, era mercoledì con promozionale, e diciamo che la scelta è stata fatta proprio come un regalo alle donne, un andare contro quelli che sono tutti gli istinti, come dire, razzisti o sessisti che in questo momento ogni tanto riaffiorano. Sì. Senti Andrea, del regista cosa ne sappiamo qui in Italia? Guarda, il regista diciamo che ha una storia, esce fuori un po' con questo film. Okay. È stata una sua scelta quella di mettersi in gioco con una storia molto difficile, ha avuto però il supporto della Fox con un cast molto molto interessante, quindi diciamo che tutta la parte di, chiamiamoli, dei credits, quindi il regista, gli attori che come attori non protagonisti poi alla fine hanno Kevin Costner e Kristen Dunst, quindi danno un bel supporto, alla fine tutto il pacchetto offre veramente un grande spettacolo. Senti, dal punto di vista di spettatore, Andrea, vedendo il film, quali sono gli elementi che più ti hanno convinto? Guarda, la storia si sviluppa in una maniera assolutamente fluida. Sì. Viene raccontata senza nessun tipo di retorica. Sì. Ha dei picchi che sono effettivamente molto coinvolgenti e anche toccanti, però non cade mai nel banale. È veramente molto godibile, è una bella storia, molto piacevole, è veramente il puro intrattenimento, però poi quando esci come spettatore senti che qualche cosa ti ha lasciato. Mm-hmm. Non è un film che tu poi una volta uscito dalla sala ti dimentichi, il messaggio c'è ma non va a sovrapporsi a quello che è l'intrattenimento cinematografico. Senti, che risultati ha ottenuto all'estero come pellicola? All'estero è stato un successo incredibile, a dimostrazione che i film girati poi con il cuore alla fine entrano in sintonia con il pubblico. Il risultato in America è stato impressionante, parliamo di 150 milioni di dollari, ma in tutto il mondo i risultati sono stati veramente veramente unici. È stato 2 settimane prima in classifica in US, sicuramente ha superato tutte le aspettative degli altri. Noi devo ammettere che avevamo grande fiducia del film, però come tutti questi film che non sono i cosiddetti, quelli che nascono blockbuster, no? Ma sono film su cui tu scommetti, come abbiamo detto, con il cuore, noi speravamo tanto che ottenesse questo risultato, ma chiaramente non potevamo avere la certezza. Oggi possiamo dire che è stato veramente un blockbuster. Da ieri nelle sale, in quante copie in Italia? Guarda, siamo usciti con poco più di 300 copie, usciamo piccoli per poi crescere quando il pubblico lo apprezzerà ancora di più. Benissimo. Andrea, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Ciao. Andrea Cuneo della 20th Century Fox sulla distribuzione del film Il diritto di contare di Theodore Melfin, uscita in sala ieri 8 marzo. In collegamento ora con Monica Maurer dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico su un paio di proiezioni dei film Frontiers of Dreams and Fears e poi 3000 Nights di Mai Masri, che saranno rispettivamente al Cine Club de Tour il 14 marzo e al Teatro Palladium Università Roma 3 il giorno dopo, 15 marzo. Monica, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, parliamo un po' di questa iniziativa, di questa regista che viene qui a Roma a presentare due suoi lavori. Allora, prima di tutto su Mai Masri, che è un po' una, se vuoi, decana del documentario politico palestinese. Lei dai anni 80, dai primi anni 80, veramente dall'82, ha cominciato dopo che ha fatto proprio una è una di quelli non autodidatti, ma quelli che l'ha proprio imparato il mestiere. Ha fatto il primo film, era su il disastro dopo la guerra di invasione di Israele nell'82, che poi sono entrati a Beirut dopo 3 mesi di assedio. Poi ha fatto molti film insieme col suo marito, poi è diventato compagno oltre al padre delle sue due figlie, e su sempre dando un foco, che è Jean Chamoun, che ha fatto un film che anche in Italia ha circolato abbastanza, Women Beyond Borders, cioè donne oltre frontiera, sulle le prigioniere politiche nelle carceri israeliane. Sì. E è un tema che mai ora, dopo una ventina di documentari, ha fatto il suo primo lungometraggio, che si chiama appunto 3000 notti, che è la storia vera di una delle donne che lei ha conosciuto tanto tempo fa, che ha diciamo adattato a una storia vera, di una giovane insegnante che appena sposata viene denunciata per dubbio di avere dato un strappo in macchina a un presunto terrorista, e per questo viene arrestata, tenuta per anni con la cosiddetta detenzione preventiva, poi non ha mai subito un vero processo, e scopre di essere incinta in prigione, e dà nascita al suo bambino in prigione, incatenata, e non vuole lasciare il bambino, così il bambino cresce con lei in prigione, dove lei è tra lei è un'altra politica, diciamo tra virgolette, tra cosiddetti criminali comuni, lei cerca di far crescere questo ragazzino appunto per 3000 notti, cioè quasi 8 anni, senza dare i propri traumi. Il film è stato premiato in vari paesi, tra l'altro è stato in Toronto, ma è in Italia, malgrado che in altri paesi come la Francia, dove è uscito in 70 copie, e dove è da ormai quasi 3 mesi in molti cinema, in Italia purtroppo non è uscito, e quindi era un'iniziativa intorno all'8 marzo di lanciare questo film. Il film invece quindi è il 15 cioè mercoledì prossimo, il 15 marzo alle 20:30 al Teatro Palladium, mentre il 14 al De Tour, che ha, come voi sapete, una programmazione molto attenta anche alla causa palestinese, ci sarà un suo film che ha quasi un 15, 13 anni, diciamo, che si chiama Frontiere di sogni e paure, che è una bellissima storia di amicizia costruita attraverso le frontiere con un canale virtuale. Sono ragazzi tredicenni, quattordicenni, che è in un centro nel campo di profughi, uno in Israele e uno in Libano, si conoscono attraverso appunto il scambio di mail, e quando nel 2000 viene liberato nel Libano del Sud un pezzo di quel territorio occupato da Israele fino a questo punto, questi giovani si incontrano alla filo spinato, alla frontiera che è stata tirata giù, e è un film di grande impatto umanità, e dà un'idea di quello che stanno vivendo i giovani sia sotto occupazione in Israele che in esilio nella diaspora libanese. Senti, Monica, ci sarà la sua presenza in entrambi le serate, vero? Ci sarà la presenza di Mai Masri in entrambe le serate, vero? Sì, certamente, certamente. Lei ci ha tenuto molto di venire e accompagnare questo, diciamo, lancio del film, perché uno dei problemi che sono di grandissima attualità e su quale lei si è impegnato di cercare aiutare, di farne parlare, di farne diffondere la coscienza sul conoscenza sul fatto che sempre di più le donne sono un obiettivo strategico proprio dei attacchi e della repressione israeliana, e che sempre più bambini sono incarcerati, e le condizioni veramente subumane e assolutamente non degno di un paese che si riclama democratico nelle carceri. E quindi lei viene e sarà in tutti e due serate presente, e farà anche un incontro col pubblico, presenterà i film e incontrerà il pubblico dopo il film. Benissimo. Monica, io ti abbraccio, a risentirci presto. Anche io, e un grande abbraccio collettivo a tutti i visionari. Ciao, ciao, ciao. A presto. Ciao, ciao Monica. Ciao, a presto. Ciao. Monica Maurer dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, per parlarci delle proiezioni dei film Frontiers of Dreams and Fears, Le frontiere dei sogni e delle paure, e di 3000 Nights, 3000 notti, di Mai Masri, il primo al Cineclub de Tour il prossimo 14 marzo, il giorno dopo l'altro al Teatro Palladium, Università Roma 3, 15 marzo. In collegamento con Patrizia Rappazzo, direttrice della 24esima edizione di Sguardi Altrove Film Festivals, Women's Empowerment Working to Overcome Gender Inequality. Allo spazio Oberdan, la Casa dei Diritti a Milano, dal 12 al 19 marzo. Patrizia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, sono molto contenta di essere ancora con voi anche per quest'anno. Allora Patrizia, 24esima edizione, un sottotitolo molto interessante e indicativo, parlacene un po'. Sì, il tema di quest'anno è l'empowerment, proprio in l'empowerment delle donne, il superamento delle discriminazioni di tutte le donne in tutti gli ambiti culturali, anche in linea con le indicazioni del Parlamento europeo proprio relativamente all'anno 2017. Festival quest'anno è un festival molto ricco, con un programma di oltre 60 titoli, con un 25 anteprime tra italiane, internazionali e addirittura assolute. Siamo veramente molto contenti, abbiamo costruito questo palinsesto articolando temi diversi. Naturalmente il primo in assoluto, quello che appunto recita il sottotitolo, quindi l'empowerment delle donne e il superamento delle discriminazioni anche in ambiti e culture diverse, ma sicuramente anche le migrazioni, il ruolo delle madri migranti, il carcere, le donne in carcere e i loro figli, cioè temi diversi che attraversano la contemporaneità sociale, storica e politica, anche con una finestra sulla Siria, per cui siamo come dire nel tempo, che è proprio la caratteristica del festival, di raccontare attraverso il cinema, il cinema documentario e linguaggi altri laddove ci sono state delle occasioni differenti, proprio la contemporaneità attraverso poi l'arte. Senti, come è organizzato il festival quest'anno? Quali sono le sezioni? Allora, le sezioni sono tre sezioni competitive internazionali, lungometraggi, documentari e cortometraggi, e una sezione dedicata al cinema, interamente dedicata al cinema italiano, a regia mista, mentre gli altri sono esclusivamente regia femminile, premio del pubblico. Sono tre competizioni internazionali ricche, con tante anteprime, così come dicevo, e quella italiana è molto ampia, con oltre 10 titoli, quindi come dire abbiamo lavorato molto alla scoperta di talenti nuovi, proprio per presentare delle cinematografie diverse nell'ambito internazionale, nomi e nuovi anche nel cinema italiano. Poi abbiamo una sezione dedicata tradizionalmente ai diritti umani, che quest'anno apre appunto lo spaccato sulla Siria, con anche degli appuntamenti che svilupperanno anche un dibattito, un confronto con il pubblico legati ai temi proprio della migrazione. Poi abbiamo una masterclass coordinata da Rossella Schillaci e Irene Dionisio, proprio sul cinema, il documentario che racconta le migrazioni e che racconta i limiti e i confini liquidi ormai di questa nostra contemporaneità. Una bella, e di questo siamo veramente orgogliosi, retrospettiva fatta in collaborazione col Parlamento Europeo, Ufficio di Milano, il Goethe Institute, dedicata a Mare Nade, regista tedesca, talentuosa in sala in questo momento, con vi presento Tony Herman, candidato all'Oscar 2017, ma che si arricchisce anche dei primi titoli in anteprima italiana che verranno presentati a Milano della regista. Quindi un programma ricco che mette insieme anche linguaggi differenti, cinematografie differenti, modi diversi di raccontare. Bene. Ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente, ma volevo ricordare due note significative del, sì, del festival prima di chiudere. Allora, il primo è l'apertura con Certain Women di Kelly Richard in anteprima italiana, regista talentuosa statunitense, e ci pregiamo proprio di presentare al pubblico sia a Milano che a Roma, e questa è la novità di quest'anno. Il festival si sposterà alla Casa del Cinema di Roma dal 23 al 24 di marzo, quindi sarà la sua tappa romana, dove sarà occasione non solo di vedere Certain Women e poi i film che hanno vinto i concorsi internazionali italiano, ma soprattutto è anche per omaggiare con un premio alla carriera alla nostra talentuosissima e indimenticabile regista Liliana Cavani. Benissimo. Patrizia, un abbraccio, a risentirci presto. Certo, grazie. Vi aspetto anche in sala Roma a questo punto, con grande piacere. Bene, a presto. Ciao Patrizia. Patrizia Arappazzo, direttrice della 24esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival, Women's Empowerment, Working to Overcome Gender Inequality, allo spazio Oberda nella Casa dei Diritti a Milano dal 12 al 19 di marzo. Con Marina Marzotto per parlare della sesta edizione del MICI, Meeting Internazionale del Cinema Indipendente, a Matera dal 15 al 19 marzo. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, raccontaci un po' di questo meeting. Credo che questa sia la prima volta che ne parliamo, non so perché, ma è così. Sì, è vero, ma forse perché alla fine siamo alla sesta edizione, che non sono né poche ma neanche tantissime, quindi è giusto che anche voi ci scopriate per un po' di tempo. E chiaramente di edizione in edizione è diventato più grande, quindi oggi devo dire veramente un evento di livello internazionale. Ok, allora partiamo dal principio. Su quali caratteristiche è partito il festival e come si sta sviluppando il festival, il meeting, insomma, in altro... Allora, si chiama meeting, ma come dici giustamente, se vuoi, ha anche un profilo da festival, nel senso che noi abbiamo tre macro aree di attività al meeting. Una parte è una rassegna di film dedicata all'educazione all'immagine, alla formazione dell'audience, dedicata quindi al pubblico, sia dei bambini e dei giovani, degli studenti, perché facciamo delle matinée dedicate agli studenti che vengono sempre accompagnate da un critico cinematografico, delle volte anche dal regista stesso, in modo da creare anche dialogo sui film e far rendere conto appunto ai giovani che i film non sono solo materiale usa e getta che uno guarda e poi si dimentica, ma possono essere fantastici spunti di discussione e in un qualche modo qualcosa che ti rimane dentro. Nello stesso tempo facciamo una rassegna serale, sono tutte anteprime nazionali, quindi tutti film inediti per il pubblico italiano, che usciranno nelle prossime settimane in Italia. Queste avvengono al Cinema Comunale di Matera e tutte le sere a partire dal 15 ci sono delle belle opere del cinema indipendente europeo. Si parte con La mia famiglia su quadro di Max Nardari, che è una commedia leggera, divertente, per poi passare a una serata dedicata al cinema made in Lucania, dove c'è Il fischio di famiglia, che racconta la storia della famiglia Coppola, che è originaria della Basilicata. E poi Matera 15-19, episodio primo, sono due documentari più o meno di un'ora ciascuno, e chiaramente Matera 15-19 in anteprima mondiale, la prima volta che viene vista dal pubblico, ed è giusto che sia vista dal pubblico a Matera, ecco. Senti, la scelta di Matera? La scelta di Matera, scusami, apro una velocissima parentesi, poi continuano le anteprime, nel senso che il venerdì c'è Veronesi, il sabato abbiamo il nuovo film di Nicole Garcia, la domenica il nuovo film di Ciro De Caro, quindi tutte le sere c'è un'anteprima nazionale. La scelta di Matera è una scelta chiaramente che ci ha incuriosito in quanto capitale della cultura, in quanto anche cultura e città ritrovata, è la città più antica d'Europa, credo di aver letto più volte, scoperta da Pasolini, quindi c'ha cinematograficamente parlando, quindi c'ha anche una grande storia cinematografica, ricordiamo, non so, The Passion di Mel Gibson, ma anche tanti film che si sono girati recentemente, appunto da quando la Basilicata con la Lucana Film Commission ha cominciato un vero e proprio lavoro per far tornare il cinema internazionale a Matera e in Basilicata in genere, attraendo grandissimi set come Mary Magdalene l'anno passato, piuttosto che Ben Hur nel precedente. quindi è in un qualche modo un luogo del cinema, ma anche un luogo di grandissima e longeva cultura. E quindi per noi è sembrato un luogo ideale in un qualche modo dove raccontare il cinema indipendente che ha sempre grandi radici nella tradizione per certi versi, ma è anche a sua volta una rinascita continua al cinema indipendente perché è quello più sperimentale. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Allora, si trova praticamente tutto sul sito della GPC che è www.agpci.eu. Perfetto. Allora, un abbraccio, ricordiamo l'appuntamento, la sesta edizione del meeting internazionale del cinema indipendente a Matera dal 15 al 19 marzo. Marina, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ritroviamo Elisa Moruso, regista del documentario Strane e Straniere, in uscita in sala ieri 8 marzo. Elisa, ben ritrovata. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Bene, ieri la sala, nonostante le mille difficoltà dello sciopero, del cinema a 2 euro, della festa delle donne, ieri veramente c'erano mille controindicazioni e invece sia il Barberini che il Parnese sono venute molte persone, siamo stati contenti di aver presentato il film e speriamo che succeda lo stesso anche stasera all'Apollo 11. Esatto. Alla tua presenza? Sì, stasera presentiamo il film all'Apollo 11 a Piazza Vittorio e c'è una promozione che però credo che forse sarà già, qualcuno si sarà già affrettato a cogliere, perché il film resta all'Apollo per una settimana fino al 15 e i primi 6 che ogni giorno acquistano il biglietto hanno diritto ad una cena da Sonia, il ristorante cinese di Piazza Vittorio che spero che per voi, che tutti voi conosciate. Senti Elisa, partiamo dalla storia, per chi ci sta ascoltando, di cosa parla Strane e Straniere? Strane e Straniere parla di 5 donne che sono arrivate in Italia da paesi diversi e sono riuscite tutte a realizzare un loro sogno. Quindi c'è Radi, che è una bulgara che non aveva mai visto il mare e in Italia invece è riuscita a diventare pescatrice. Sonia, che aveva un ristorante cinese piccolissimo dello zio a San Martino ai Monti con 20 coperti ed ha trasformato questo ristorante in uno dei più grandi e più famosi ristoranti della capitale, proprio solo grazie alla sua personalità, alla sua simpatia. E poi c'è Siem, che è una tunisina, che invece è la capa di un'associazione culturale che fa volontariato e fa tantissime attività a carattere umanitario con la comunità di Aprilia. E infine ci sono gli Ubaiana, una serba e una croata. Si incontrano a Roma 20 anni fa, mentre nei loro paesi c'era la guerra, e nonostante tutto diventano amiche e decidono di fondare a Monti, a Roma, una galleria d'arte. Mm-hmm. Oh, Elisa, sono stati incontri programmati o casuali questi di queste protagoniste per il tuo lavoro? No, queste protagoniste erano già state contattate da un'antropologa, Maria Antonietta Mariani, che è la stessa che è venuta da me a propormi il progetto. Quindi Maria Antonietta ha collaborato con me al film, al soggetto, all'idea del film, e abbiamo scelto insieme quali fossero, anche con l'aiuto di Rai Cinema, quali fossero le protagoniste più giuste per raccontare questa storia. Però il progetto antropologico aveva un po' lo stesso scopo del film, anche se nelle mostre di Maria Antonietta queste donne apparivano e si raccontavano soprattutto per il loro mestiere. Quello che ho cercato io nel film è stato provare a dar loro anche come dire, una parte più intima, no? Provare a far arrivare il racconto dei loro ricordi, delle loro radici, dei loro desideri, insomma, ecco, volevo provare a fare un racconto delle emozioni di queste donne, non soltanto a raccontare la loro storia, che in quasi tutti i casi è una storia complicata ma di integrazione e di successo. Mm-hmm. Senti Elisa, a partire dall'idea che ti eri fatta all'inizio e con la quale sei partita, e poi lavorare insieme a queste persone ti ha fatto prendere anche una strada condivisa con loro, insomma si è il tuo punto di vista si è come dire, in qualche modo modificato, arricchito anche in base alle loro parole, alle loro vite? Assolutamente, questo è una cosa che succede sempre, succede spesso anche nei film di finzione, ma soprattutto succede nei documentari, perché la realtà è quella che abbiamo davanti, quella che stiamo cercando di raccontare e di fotografare, quindi sarebbe strano il contrario, no? Sarebbe pazzesco se la realtà che cerchiamo di raccontare in un film documentario non ci sorprendesse. Queste storie mi hanno sorpreso al punto che dovevano essere tre e sono diventate cinque, perché la storia di Lyubayana non era prevista all'inizio, sì, del progetto. Quando le ho conosciute mi sono talmente appassionata alla loro relazione, al modo in cui raccontavano della loro infanzia e al loro modo anche di vedere le cose, di esportare gli artisti di questa galleria d'arte, che è una piccola galleria che si chiama Atelier, che alla fine le ho incluse in questi ritratti. E sicuramente ciascuna di loro ha dato un valore aggiunto al film che io non avevo assolutamente possibilità di prevedere. Quello che ho cercato di fare è stato il tentativo di creare comunque un tessuto narrativo di contenuti che potesse accorparle l'una all'altra, perché fin dall'inizio anche con Rai Cinema avevamo l'idea di un film corale, quindi di personaggi che hanno delle vite parallele e che però si uniscono, passano dall'una all'altra attraverso delle cornici emotive, attraverso le loro parole, attraverso un'immagine oppure attraverso un suono che ritorna. Questo era l'intento iniziale del progetto e devo dire che è stato molto difficile farlo con cinque storie anziché con tre, ma sicuramente il film ne ha guadagnato, perché è più ricco, più sfaccettato, e i ritratti che si fanno di queste donne straniere sono sicuramente più variegati, più complessi e credo anche più interessanti. Senti, anche in base alla tua esperienza precedente, al documentario che hai realizzato prima, com'è stato il tuo modo di lavorare? Hai seguito ogni storia con una continuità oppure è stato intermittente, e quanto tempo ha preso nel complesso? Ma nel complesso, diciamo, il lavoro di riprese, che poi è cominciato con in realtà il lavoro sulla storia e quindi gli incontri con le protagoniste, come ho fatto anche in Fuoristrada, ho cercato di stabilire dei contatti il più possibile in profondità con queste donne, sì, che alle quali chiedevo di raccontarmi tutta la loro vita, e quindi in qualche modo era necessario che tra noi ci fosse uno scambio abbastanza intimo, che quindi ci fosse confidenza, che loro potessero appunto fidarsi di me. In Fuoristrada sono stata fortunata perché il protagonista era uno o due, perché era Pino e Beatrice, ma in questo caso con tutte queste donne è stato sicuramente più faticoso, più frastagliato e più frammentato il percorso. Mm-hmm. Però nell'insieme, diciamo che tra la scrittura e le riprese è passato all'incirca un anno. Le riprese sono state fatte in momenti anche diversi, perché alcune erano finalizzate solo alla realizzazione di un promo, invece poi abbiamo capito che ci raccontavano parti fondamentali della vita di queste donne, quindi le abbiamo inserite anche nel film. E è stato tutto, insomma, come al solito nella lavorazione di un documentario, anche gestito in base agli umori, alle cose che venivano fuori, a quello che accadeva nelle vite di queste donne. Penso per esempio al marito di Sonia, che quando abbiamo cominciato a girare non era con lei, anzi lei addirittura in un'intervista mi ha detto: mio marito è scomparso da 2 anni, e poi quando siamo tornati a girare 3 mesi dopo il marito era tornato. Quindi insomma anche i grossi cambiamenti delle loro vite, come sempre accade, in un film documentario, sì, che quindi racconta la realtà vera delle persone, ci sono stati dei cambiamenti anche all'interno delle storie del, sì, film, sì. Ecco, proprio in base a questo aspetto che mi stavi dicendo adesso, un'altra curiosità, soprattutto per chi ci ascolta, io poi l'ho visto il documentario, ma in che rapporto sono, per esempio, l'universo privato, sentimentale di queste donne e la loro attività lavorativa, professionale? Diciamo che spesso tra le loro, nelle loro vite, quello che ho rintracciato è che poi ho cercato di far diventare in alcuni casi anche un po' un filo conduttore del film, è proprio il fatto che hanno sempre riscontrato un divario tra la loro ambizione professionale e il loro privato, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che è come se ci fosse bisogno ancora oggi nel 2017 di emanciparsi, no? Per quanto riguarda noi donne, per quanto riguarda alcune donne, alcune situazioni, e mi ha abbastanza sorpreso, perché fatta eccezione per le storie di Liuba e di Ana, che sono storie più particolari, in cui comunque c'è più un'armonia tra il privato e il professionale, negli altri casi invece queste donne spesso hanno dovuto separarsi da relazioni che le tenevano incastrate, relazioni sentimentali, relazioni familiari, relazioni con le loro radici, e quindi in qualche modo le condizionavano e non riuscivano ad esprimersi nella loro personalità completa, non riuscivano ad affermare la loro identità professionale avendo accanto dei mariti che le soffocavano. Si sono tutte liberate, e forse anche il fatto di venire da una condizione così costrittiva, da una cultura magari più rigida della nostra, come può essere la cultura araba o quella cinese, in un caso perfino quella italiana, sono riuscite poi a separarsene e a trovare una loro strada. Senti, che allora abbiamo detto di questa uscita romana è positiva, e come proseguirà il viaggio di Strane Straniere? Dunque, Strane Straniere deve essere programmato sicuramente ad Ancona, che è un cinema che ce l'ha richiesto, è attualmente in programmazione al Cinema Massimo di Pescara, non so cosa succederà a Genova, Milano, nelle città in cui è stato già proiettato, perché probabilmente a Milano per esempio tornerà già in due festival a fine marzo, e quindi forse ci sarà la possibilità di riprogrammarlo anche all'interno di un'altra sala milanese. E per quanto riguarda Roma, speriamo che l'Apollo 11 possa tenerlo il più possibile. Ieri, vista comunque nonostante tutto l'affluenza di pubblico, anche il Farnese ha dato disponibilità per un'eventuale riprogrammazione, e aspettiamo trepidanti che qualcuno, qualche altra sala possa accogliere un piccolo film che, come sapete, non è facile distribuire. Bene. Elisa, un abbraccio e a presto. Grazie Federico, grazie a tutti e buona giornata. Ciao. Venite a vedere il film, sì. Ore 21, Apollo 11. Bene. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Elisa Amoruso, regista del documentario Strane Straniere, in uscita in sala ieri mercoledì 8 marzo, e con questo collegamento chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionari. Torniamo in onda, in diretta giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page trovate tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, sulla colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Vi lascio all'automatico, perché ricordo che quest'oggi Tracce di Cinema non va in onda. Buon proseguimento, alle 16 è il momento di Attica Blues. A giovedì prossimo.